Friuli nel mondo. 145esima trasmissione dedicata agli emigrati. Un glorioso anniversario. Novembre 1918. Sono trascorsi da allora quasi 50 anni. È una data che forse nel cuore dei giovani d'oggi ha poca risonanza. Essi ne hanno sentito parlare a scuola dai loro insegnanti o a casa dai loro nonni. Per coloro della generazione di mezzo, la guerra 1915-18 è un retaggio dei padri. Ma quanti sono ancora, anche se purtroppo molti ogni anno mancano all'appello, gli ex combattenti del Carso e del Grappa, del Piave e dell'Isonzo, dell'Ortigara e del Montello? Certo sono ancora molti, e fra essi non pochi da tempo lontani dalla patria. Oggi, 4 novembre 1965, essi rivivono quegli anni che ricordano non solo la loro giovinezza e la dura vita della trincea, ma anche i luoghi dell'ardimento e del sacrificio, quanti si sono allontanati lungo le innumerevoli strade del mondo e i commilitoni caduti. Erano quelli tempi veramente duri, e il popolo dette voce al proprio sentimento attraverso canti e preghiere, invocazioni e poemi eroici. Ne è un esempio questo componimento friulano del tempo, che è una preghiera perché il nemico non calpesti il suolo d'Italia, perché la patria sia salva. E gli è arrivata l'ore che nu segna il destino. Signor, salvainus. Signor, salvai ti nestri sfis, penestre vecchiae, che un rimetin lavore di finì. Alla canae noi manchi il pari. Fai che si salvi il spi cal sverdepe campagne. Fai, o fai che il nimì non metti piti in chiase nestre. Fai che la guerra non uspuarti il disio in queste primavere floride fra i chiasai e li svili slusin de basse fin sui quei. Salvai la nestra in, salvai l'Italia, mari gloriose, antiche e nuove di dolor, di virtù, che nus clame alla prove. Era logico che il popolo friulano, che visse più di ogni altro a ridosso del fronte e a quotidiano contatto con i combattenti, esprimesse con particolare profondità di sentimento il desiderio che la guerra avesse termine, perché i figli tornassero alle madri, gli sposi alle spose. È di un anonimo alpino questa stupenda villotta, che documenta come, pur nell'orrore della guerra, l'anima mantenga fede agli affetti più puri. quanti giovani vide il Friuli avviarsi al fronte, inquadrati nei gloriosi reggimenti. Al suono di quante fanfare si aprirono i balconi e le finestre per salutare con il cuore pieno di speranza i giorni radiosi della patria. Ma quanti giovani non sarebbero tornati più dall'assalto? Giovani che inviavano, quasi in un presagio, un'invocazione appassionata alla loro donna lontana, scandendo con la chitarra questo canto d'amore. Per quanti di essi quel presagio che era come un commiato alla vita si trasformò in viaggio verso la gloria e l'eternità. Oggi, sulle tombe di coloro che, noti o ignoti, hanno immolato la giovinezza per la patria, c'è l'ideale fiore della ricordanza che aleggia su tutti i grandi e i piccoli cimiteri di guerra, da Udine alla Carnia, da Trieste a Caporetto, dallo Stelvio al mare. Ma celebrando questo glorioso anniversario, non possiamo non ricordare con pari gratitudine i morti di tutte le altre guerre d'Italia. Sul ponte di Dal loro sacrificio soprattutto, i giovani imparino l'amore per la patria, inteso come amore fra i popoli e come anelito di operoso progresso nella libertà e nella giustizia. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.